GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Allerta meteo in regione fino alla mezzanotte per piogge intense, neve fino a 600 metri in montagna, vento molto forte e mareggiate, grado in preallarme e allagamenti per la marea che si sta già alzando e che avrà il suo picco attorno alle 9, scuole chiuse nell'Isola d'Oro e a Fossalon, chiusi i giardini pubblici di Trieste per le previsioni di Bora Forte. Prosegue l'emergenza migranti che passano le notti all'addiaccio perché le strutture di accoglienza sono sature. Vertice in prefettura a Gorizia, mentre a Gradisca c'era l'assessore alla sicurezza Roberti. Incidente a bordo di una nave a Trieste, un operaio è stato investito da un getto di olio ad alta pressione al volto e ha perso conoscenza. La cronaca registra anche due incidenti domestici, un cinquantenne che si è ferito con una motosega, un anziano caduto da una scala e ricoverato in condizioni critiche. Manifattura in brusca frenata nell'ultimo trimestre. A certificarlo è Confindustria regionale e anche Confcommercio vede nubi addensarsi all'orizzonte. A pesare soprattutto il caro bollette. Parte dalla Carnia, da Sutrio, il presepe che abbellirà Piazza San Pietro a Roma questo Natale. Arriverà a Roma il 3 dicembre. La mangiatoia di Gesù ricavata dalla radice di un albero estirpato dalla tempesta Vaia. La Giunta Comunale di Trieste ha presentato il piano triennale delle opere pubbliche. Per il 2023 ha previsto investimenti per oltre 244 milioni di euro. Energia, le fonti rinnovabili non bastano per raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica nei tempi previsti dall'Unione Europea. L'alternativa è il nucleare, lo afferma il fisico del CERN di Ginevra, Roberto Kersevan, in una serie di incontri in programma oggi a Udine. Buongiorno da Lara Zani e Francesca Vigori. In apertura il tempo, in questo momento ci sono piogge sparse sulla regione, nevicate deboli e moderate oltre gli 800.000 metri, vento sostenuto da nord-est su pianura e costa, acqua alta sulla costa. Le temperature a Trieste 12 gradi e mezzo, a Gorizia e Udine 8 e mezzo, a Pordenone 7 gradi, a Tolmezzo 5 gradi, a Forni di Sopra, a Piancavallo e a Tarvisio 0, a Sappada meno 1, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan meno 2 gradi, a Lignano 11 gradi e mezzo, a Grado 13 e mezzo. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per tutta la giornata, per piogge molto intense, raffiche di vento di scirocco molto forti, mareggiate e acqua alta, in particolare in corrispondenza del picco di marea previsto in mattinata, attorno alle 9, e a causa del moto ondoso sostenuto. Tutte le scuole di grado sono chiuse, la disposizione vale anche per Fossalon, mentre a Trieste restano chiusi i giardini pubblici comunali a causa della previsione di bora, che potrebbe provocare la caduta di rami. A Muggia chiuso il Duomo fino alla fine dell'emergenza, con la messa delle 8:30 che non sarà celebrata. Sentiamo ora il previsore dell'ARPA Gabriele Fasano, che ci aggiorna sulla situazione. In seguito all'ingresso di una saccatura atlantica si è formato un minimo depressionario sul Mediterraneo e questo minimo si approfondisce e passerà oggi, nella giornata di oggi, anche sull'Alto Adriatico. Quindi adesso la situazione, abbiamo cielo coperto in questo momento e ci sono delle piogge moderate, in genere diffuse moderate su tutta la regione, ma abbondanti invece sulle zone tra bassa pianura e costa. In montagna abbiamo nevicate oltre i circa 800.000 metri nelle vallate più interne e 1.000-1.200 in questo momento verso le prealpi. La fase, diciamo, comunque più acuta della perturbazione di oggi passerà più o meno in realtà a partire da adesso fino alle 18 probabilmente, quindi entriamo adesso nella fase un po' più acuta. E quali sono le zone più a rischio? I fenomeni, diciamo, più rischiosi che ci attendiamo sono le nevicate, che potrebbero essere localmente anche abbondanti in montagna, in particolare verso il Tarvisiano, dove potrebbe nevicare anche a fondovalle un po' quasi per tutto il giorno, quindi accumulare anche un discreto quantitativo di neve a fondovalle, anche 20-30 centimetri forse. Per quanto riguarda la costa, l'acqua alta e le mareggiate, in particolare a partire dalle 7 del mattino fino al primo pomeriggio ci sarà il massimo del livello di acqua alta, soprattutto verso Grado Lignano, e poi ci sarà anche bora forte, molto forte, raffiche fino a 100-120 km all'ora e quindi possibili mareggiate. Quindi, appunto, riassumendo, sulla costa acqua alta e possibili mareggiate, soprattutto verso Grado Lignano, dal mattino al primo pomeriggio. Emergenza migranti all'Addiaccio. A Gradisca l'assessore regionale alla sicurezza Roberti ha incontrato il sindaco Linda Tomasinsic, giunta e capigruppo in consiglio comunale, per discutere la difficile situazione dell'accoglienza con il CARA pieno oltre la sua capienza. Di migrazione si è parlato anche a Gorizia nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Ricciardi. Anche qui l'emergenza è legata al pernottamento all'aperto dei migranti che non trovano posto nelle strutture. L'ipotesi del hotspot per migranti a Trieste è sul tavolo. Lo conferma l'assessore regionale alla sicurezza e migrazione per Paolo Roberti a margine di un incontro in comune a Gradisca proprio sul tema migranti. Per Roberti vanno ripristinate pattuglie miste e respingimenti in Slovenia. Per chi entra ci sarebbe invece una struttura come l'hotspot, appunto. Hotspot vuol dire che non entri e non esci. Entri soltanto per le procedure, non puoi uscire, e nel momento in cui hai fatto il fotosegnalamento, hai fatto tutte le pratiche, viene spedito in un altro territorio, via dal Friuli Venezia Giulia. Questo vuol dire che il Friuli Venezia Giulia, se si fa carico di una cosa del genere, l'accoglienza non la può più sostenere, quindi azzeramento dell'accoglienza in cambio di un eventuale hotspot. Trasferimenti che oggi sono fermi o quasi, perché i posti scarseggiano anche nel resto del paese. In questa situazione soffre molto Gradisca, dove decine di richiedenti asilo rimangono da settimane in strada in attesa di entrare in un CARA strapieno, 650 ospiti a fronte di una capienza di 200. Per la sindaca Linda Tomasinsic bisogna condividere il peso con altri comuni, anche attraverso quell'accoglienza diffusa che vede contraria la giunta regionale. Noi chiediamo venga data una risposta immediata e quindi è importante che la Regione si faccia promotore di una pressione molto forte sul governo centrale, in modo che le prefetture abbiano le risorse e il modo per provvedervi. In mattinata si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza sulla situazione di Gorizia, che il prefetto Raffaele Ricciardi definisce in miglioramento. Le difficoltà degli ultimi giorni del capoluogo isontino sono dovute per lo più all'arrivo di stranieri sbarcati nel sud Italia, in particolare egiziani, che non hanno titolo però di entrare nel sistema dell'accoglienza del territorio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 28 anni è stato soccorso a bordo di una nave ormeggiata al molo settimo del Punto Franco Nuovo di Trieste, dopo essere stato colpito al volto da un getto di olio ad alta pressione, per cause in corso di accertamento. L'uomo ha perso conoscenza, sul posto si è subito recata un'ambulanza da Trieste. Il SORES ha attivato anche la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, per quanto di competenza. L'uomo è stato immediatamente soccorso, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale di Catinara. E la cronaca conta anche due incidenti domestici. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in maniera seria mentre stava utilizzando una motosega nelle pertinenze di un'abitazione a Lauco. Sul posto è giunto l'elisoccorso, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all'ospedale di Udine. A Maniago, in un'abitazione, un uomo di 80 anni è caduto da una scala da un'altezza di circa 1,5 metri e ha riportato un grave trauma alla testa. Gli infermieri della SORES hanno inviato immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago e l'elisoccorso. L'uomo è stato tempestivamente intubato, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Le sanzioni verso la Russia pesano, parecchi hanno perso mercati importanti. Continueremo a pagare le conseguenze per i prossimi 2 anni, lo ha detto il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, al margine di un incontro a Udine in cui è stata illustrata l'indagine trimestrale che riferisce di un calo della produzione industriale in regione quasi del 6% nel terzo trimestre del 2022. Pesano sul calo della produzione industriale regionale nel terzo trimestre, quasi il 6% in meno rispetto all'anno scorso, i blocchi produttivi per i picchi del prezzo dell'energia, soprattutto nei settori siderurgico, legna e carta. Dato emerso dalla conferenza stampa di Confindustria Udine per fare il punto sulle attività dell'associazione dopo un anno di mandato. Sul gas, il cui prezzo è in diminuzione, le aziende rimaste senza contratto alla scadenza dell'anno termico, il 30 settembre, sono riuscite a tamponare la situazione con rinnovi mensili e non rischiano più il distacco della fornitura. Restano criticità sul nostro territorio invece per l'elettricità. Il 31 dicembre scadono i contratti dell'energia elettrica, ma è difficile oggi trovare condizioni competitive e i fornitori chiedono 2-3 mensilità di garanzie. Equivalgono a diverse migliaia di euro per le piccole imprese, qualche milione per le aziende energivore, in una situazione generalizzata di crisi di liquidità. Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine. preoccupa il fatto che va stabilizzato questo prezzo e il governo nella nuova manovra ha anche il compito di fare ciò. Tra i progetti su cui punta Confindustria Udine c'è la realizzazione di una comunità energetica su scala industriale per la quale è stato completato lo studio di fattibilità. Si lavora inoltre a una proposta di defiscalizzazione per le madri lavoratrici, riduzione dell'IRAP a livello regionale e un intervento sull'IRES a livello nazionale. Per far sì che l'azienda sia invogliata ad assumere e a mantenere una donna assunta post maternità e anche sul credito d'imposta. Premiato infine con un doppio riconoscimento l'ex dirigente scolastico del Malignani, da settembre in pensione, Andrea Carletti, per l'impegno profuso a servizio di una scuola aperta al mondo e al lavoro e per il contributo dato allo sviluppo del sistema ITS in regione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il trend negativo messo in evidenza dall'analisi di Confindustria viene confermato da Confcommercio. Le attività che chiudono sono sempre più numerose, mentre salgono i prezzi dei fornitori e cala la fiducia sul futuro andamento dell'economia. Sono più di 1000 le attività commerciali che hanno chiuso quest'anno, quasi il triplo rispetto all'anno scorso in Friuli Venezia Giulia, e di questo passo potrebbero abbandonare il mercato altre 850 imprese con la perdita di 2800 posti di lavoro. Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste. Ma la gente non compra perché non c'ha i soldi da spendere e questa è una dura realtà. Lo stiamo vedendo adesso, ma lo vedremo di più con gennaio, febbraio, in quei mesi lì, se non cambia un qualcosa di importante, cioè calo dell'energia e non ricordano le moratorie, avremo veramente un inverno, un inizio primavera pesante. Uno scenario fatto ben più di ombre che di luci, quello che emerge dall'ultimo osservatorio sul terziario regionale commissionato da Confcommercio e che ha monitorato lo stato di salute di 1536 imprese del settore, un motore trainante dell'economia regionale che però resiste e non cede troppo il passo alla crisi. Pierluigi Ascani, direttore scientifico. Funziona fortunatamente in questa regione è la capacità di resilienza che è data dalla rete di associazioni, imprese, banche, le stesse autorità pubbliche che in qualche modo garantiscono la possibilità delle imprese di continuare ad andare avanti. Basti pensare che il tasso di imprese del terziario che chiedono credito per investimenti è triplo rispetto alla media nazionale. Questo significa che nonostante le difficoltà c'è voglia di andare avanti e di costruire. Salgono i prezzi praticati dai fornitori e i timori per un aumento dei costi energetici. Il 25% delle aziende si aspetta bollette il doppio più salate rispetto al 2021. I consumatori intanto percepiscono i rincari e stringono la cinghia. Adesso è un caffè 1,45 euro. È vero. Questo pesa alla fine. Eh sì, è troppo. Sono più negozi chiusi che aperti. È una tristezza anche vedere tutte queste serrande abbassate. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono pronti modello e istruzioni per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati ai settori in difficoltà dal decreto Sostegni Bis. Potranno farlo da oggi al 6 dicembre le imprese che abbiano registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. La Giunta Comunale di Trieste ha presentato il piano triennale delle opere per il 2023, ha previsto investimenti per oltre 244 milioni, importanti gli stanziamenti nel Porto Vecchio con la cabinovia e un parcheggio multipiano. Il piano triennale delle opere rappresenta l'ossatura del bilancio comunale che sarà discusso in aula a metà dicembre, mai così in anticipo, e ciò consentirà di avviare gli interventi quanto prima, sottolineano gli assessori della Giunta di Piazza, che per il 2023 hanno previsto investimenti per 244 milioni di euro, di cui 142 di contributi statali e regionali, inclusi 63 milioni del PNRR. Ulteriori 62 milioni derivano dagli stanziamenti di bilancio e altri 40 40 dalle entrate. Il capitolo più corposo è destinato alla messa in sicurezza di strade e marciapiedi, 53 milioni di euro, e altrettante risorse saranno destinate per i beni culturali, tra questi anche Palazzo Biserini, la facciata del Rossetti e la valorizzazione dell'orto lapidario. Quasi 23 milioni vanno per gli impianti sportivi, qui tra gli altri la tribuna del Grezzari, i lavori al campo di Borgo San Sergio e al campo Colonia e al Pala Rubini. Importanti gli investimenti in Porto Vecchio, 38 milioni del PNRR per la cabinovia, 15 milioni per la realizzazione di un park multipiano al Molo Quarto e quasi 20 milioni per la realizzazione del viale monumentale del parco lineare. E poi ci sono i 33 milioni di euro del Museo del Mare, da pochissimo avviato. Per la trasformazione degli ex magazzini Silos in un centro congressi sono previsti quasi 13 milioni di euro. Elisa Lodi, assessore ai lavori pubblici. La riqualificazione del Porto Vecchio, che grazie ai finanziamenti PNRR riusciamo a finanziare attraverso una rigenerazione urbana completa, realizzazione quindi di tutta quella parte pubblica che serve per far ripartire Porto Vecchio. Per l'edilizia scolastica saranno messi a bilancio 37 milioni e 14 per la manutenzione del verde, 4 milioni invece per la rigenerazione del rione di Servola. Sandra Savino, assessore alla pianificazione territoriale. I giardini devono essere manutentati perché sono patrimonio di tutti, quindi vanno conservati, e ci sono dei giardini meravigliosi, uno Villa Engelmann piuttosto che Villa Revoltella, quindi anche là ci siamo concentrati molto, e questo da un punto di vista dell'ambiente. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora ci spostiamo a Pordenone, dove sta partendo la nuova raccolta differenziata dei rifiuti in centro. In questi giorni si stanno consegnando kit e tessere magnetiche. Sentiamo come sta andando. Ritirato i nuovi bidoni, cosa ne sembra? Ritirati, dai, insomma, facciamo un passo avanti, tutto sommato, direi che insomma ci può stare. Si consegnano i vecchi contenitori e si ritirano i nuovi bidoni per carta e secco residuo, oltre alle tessere magnetiche personalizzate per umido e vetro. Allo sportello fisso allestito da GEA presso la sede della Protezione Civile in via Ungaresca, per gli utenti della zona marrone, centro e centro storico di Pordenone, non trovati a domicilio nei giorni scorsi. Delle 3.900 utenze tra domestiche e non, 700 mancano ancora all'appello. Paola Vegnaduzzo della GEA. Vengono consegnati dei contenitori che si chiamano Easy Trolley, sono dei contenitori su ruote da 45 litri, sia per il rifiuto secco, che va a sostituire il contenitore giallo che avevano attualmente in uso, che per la carta. Il contenitore per la carta c'è un aumento di litraggio, per cui c'è un vantaggio, nel senso che ci sono 15 litri in più da poter utilizzare. I sacchetti per la plastica e il metallo, come già si faceva, e la novità è la consegna della tesserina per l'apertura dei contenitori di vetro e umido, che sono gli unici contenitori che rimarranno su strada. Altra novità, per sfalci e ramagli si passa al servizio in abbonamento e da gennaio si partirà con la tariffa differenziata, si pagherà in base al quantitativo di rifiuto secco conferito. Cosa ne pensa di questo nuovo sistema di raccolta? Se serve a migliorare le cose, ben venga. L'importante è, lo vedremo nel tempo, ma penso che la cosa sia più funzionale. Non mi piace per niente. Cos'è che non le convince? Non mi convince perché le case si trasformano in discariche. Le immondizie devono stare nelle case e dobbiamo anche tenercele finché non passano, e se non ci siamo ce le teniamo ancora. Io negozio in centro e già da un po' che c'è questo sistema e ci adatteremo. È possibile il ritiro dei kit anche sabato 26 dalle 9 alle 17. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Arriverà il 3 dicembre a Roma, da Sutrio in Carnia, il presepe del Natale 2022 in Vaticano, che arrederà il cuore di Piazza San Pietro con le sue 18 statue disposte su una superficie di 116 metri quadrati illuminate da 50 punti luce. L'opera è stata realizzata da un team di artigiani del legno del Friuli Venezia Giulia. Nel 2020 il governatorato dello Stato della Città del Vaticano aveva accolto la disponibilità dell'amministrazione comunale di Sutrio di intagliare e offrire il presepe per il tradizionale allestimento natalizio in Piazza San Pietro. Da allora, nell'ultimo biennio, 11 scultori hanno lavorato alle 18 statue e alla struttura del presepe. Complessivamente pesa quasi 17 tonnellate e la superficie della grotta, sotto una cupola alta 5,5 metri, è di 41 metri quadrati. Nessun albero è stato abbattuto per fornire la materia prima. La culla del bambino, ad esempio, è stata scolpita nella radice di un albero sradicato durante la tempesta Vaia. L'assessore regionale alla montagna Stefano Zani era il nuovo presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO. Durante la riunione del consiglio di amministrazione dell'organismo, svoltosi a Cortina d'Ampezzo, è avvenuto il passaggio consegne con il presidente uscente Mario Tonina, vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento. Zani ha evidenziato che tra i temi più rilevanti con i quali la Fondazione dovrà confrontarsi spiccano le Olimpiadi invernali e il turismo. In merito a quest'ultimo, aspetto le differenze tra i territori aderenti alla Fondazione sono talmente rilevanti che, ha precisato, è fondamentale definire qual è il livello dell'offerta da proporre al pubblico, di modo da garantire sia la sostenibilità ambientale dell'area dolomitica, sia quella economica delle azioni promozionali intraprese. Grazie ai fondi del piano di ripresa e resilienza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha sede nel campus scientifico di Basovizza, svilupperà ricerche in settori che vanno dai nuovi combustibili ai nuovi materiali a nuovi farmaci. Sentiamo Stefano Fabris, responsabile del CNR di Trieste. Questo è un anno di svolta per il Consiglio Nazionale delle Ricerche e in generale per il Paese. È un momento di grande investimento nella ricerca, grandi opportunità. Nel campus scientifico di Basovizza, sede da oltre 20 anni di 4 importanti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si guarda al futuro con fiducia. Sono in arrivo 50 milioni di euro, fondi nazionali ed europei che finanzieranno progetti condivisi con altri partner di eccellenza che operano a Trieste. Investiti proprio nell'anno del centenario del CNR, fondato il 18 novembre 1923, in nuovi laboratori e strumenti all'avanguardia. Permetteranno di rifare le linee di luce del sincrotrone di Trieste. In aggiunta ci siamo posizionati molto bene sui bandi del PNRR, vincendo da coordinatori o da partecipanti una serie di progetti che permetteranno di aprire nuovi laboratori, nuove linee di ricerca, in forte collaborazione con i nostri partner Area Science Park, Elettra Sincrotrone Trieste, la SISSA, l'Università di Trieste. Dall'energia alla biofisica, la ricerca guarda alle nuove frontiere in tutti i settori. Nuovi farmaci, l'acquisizione di nuovi microscopi che permetteranno di studiare nuovi virus, sviluppare nuove infrastrutture di ricerca per la nanofabbricazione con applicazioni in ambito energie rinnovabili, nuovi dispositivi elettronici che poi finiscono nel telefonino, nei nuovi computer, ma soprattutto si dà un'impronta al paese. Ci si riassembla, ci si riorganizza per restare allo stato dell'arte e competitivi a livello nazionale e internazionale. Elena Scarrone, TGR Friuli Venezia Giulia. Quanta energia si produce e quanta ne servirà nei prossimi decenni, le possibilità e i limiti delle fonti rinnovabili e il nucleare? Se ne parlerà nelle 3 conferenze organizzate dall'Associazione Amici del Museo Friulano di Storia Naturale, alle 11 all'Istituto Malignani di Udine, alle 18 nella Sala Astra del Visionario e domani al Liceo Buonarroti di Monfalcone. Relatore sarà Roberto Kersevan, fisico del CERN di Ginevra. Io mostrerò soprattutto qual è la produzione attuale basata su dati, quindi non modelli futuri, e cercherò di spiegare perché secondo me nel futuro non sarà sufficiente utilizzare solo le rinnovabili, come è invece nei piani dell'Unione Europea e di tanti altri paesi. Io dico che non è possibile risolvere il problema adesso nei tempi previsti dai piani, per esempio dell'Unione Europea, che dicono che entro il 2050, quindi solo fra 28 anni, riusciremo a decarbonizzare tutto usando solo rinnovabili. L'alternativa è usare anche altre fonti, tra i quali il nucleare. È abbastanza strano che un continente che dice di voler decarbonizzare e che ha il nucleare come prima fonte energetica adesso faccia di tutto per fermare questa fonte energetica che è la prima del continente. E a proposito di quelli che sono i timori e i rischi per il nucleare? Altri paesi che non hanno i timori nostri stanno risolvendo il problema delle loro scorie, per esempio, perché le scorie sembra che sia una cosa irrisolvibile, che nessuno sa cosa fare, che costano tanto, che durano tanto, che sono tantissime. Invece è vero esattamente il contrario. Quindi lei propone il nucleare come ipotesi alternativa per il futuro? Per i paesi che già ce l'hanno sicuramente continuerà a farlo. Per i paesi che non ce l'hanno, come l'Italia, di considerare il fatto che se non fanno nucleare dovranno continuare a fare quello che fanno adesso, quindi import tanto e gas fossili, insomma carbone, quello che è, perché le rinnovabili intermittenti non riusciranno mai a rimpiazzare le fonti non intermittenti. Quindi o si diminuisce drasticamente l'attività industriale del paese, oppure l'alternativa è usare qualcos'altro. Sei significative proposte, uno specifico progetto composito sulla violenza nelle giovani coppie, denominato Le ripercussioni di genere, compongono il programma illustrato dal Comune di Trieste in occasione della giornata contro la violenza sulle donne che si celebrerà il 25 novembre. Focus delle iniziative saranno i giovani. Tra i progetti promossi figurano la redazione di un vademecum in forma di fumetto per informare ragazze e ragazzi sui servizi presenti sul territorio a favore e tutela delle vittime di violenza, la sesta edizione del concorso artistico letterario Parole, suoni e colori contro la violenza sulle donne, rivolto agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni e il cui bando uscirà proprio il 25 novembre, la presentazione del libro Libera Libere relativo allo sfruttamento sessuale e lavorativo delle donne più fragili. I bambini e le bambine entrano in contatto con i dispositivi digitali fin dai primi mesi di vita. Com'è possibile accompagnarli verso un utilizzo limitato della tecnologia, in modo da poter dedicare più tempo alla relazione con gli altri, con ciò che ci circonda e con la natura? Se ne parlerà nel corso dell'incontro in programma alle 17 nella sala conferenze del Centro Polifunzionale di La Tisana, nell'ambito della Settimana Nazionale Nati per Leggere, con Ilaria Perini e Valeria Balbinot del Centro per la Salute del Bambino. Quest'ultima illustra i rischi del contatto precoce con i dispositivi digitali. I rischi del contatto precoce dei bambini con tecnologie come smartphone e tablet, che poi sono i loro dispositivi preferiti, dipendono un po' anche dal tempo che si dedica a questi dispositivi. Ovviamente maggiore è il tempo dedicato ai dispositivi e quello tolto alla relazione, maggiori possono essere i rischi. I rischi sono principalmente connessi al fatto che si passa molto tempo fermi nella stessa posizione e quindi ci sono tutte le problematiche legate alla mancanza di movimento, come può essere l'obesità nei casi più gravi. E per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti cognitivi, sono problematiche legate principalmente alla mancanza di relazione, al tempo che si sottrae allo stare insieme ai genitori e con i coetanei. E come si può ricondurre i bambini a un uso corretto di questi dispositivi, sia in termini di quantità di tempo che di qualità dell'uso che ne fanno? Ma io penso che il segreto sia quello di accompagnare i genitori, che peraltro conoscono sempre molto bene le varie problematiche, i vari rischi per i propri figli, in un percorso che possa far capire loro quelli che sono davvero i rischi che poi i bambini possono avere anche da adulti, nel senso che quello che magari non si vede quando i bambini sono molto piccoli e non si conosce, poi si palesa quando si è più grandi, soprattutto nella fase dell'adolescenza. Quindi stare vicino ai genitori, informarli e saperli guidare verso gli esperti che conoscono un po' meglio la materia, in modo da dare informazioni corrette. L'avvocato colombiano per i diritti umani Adil José Meléndez Márquez sarà protagonista alle 9.30 in sala Iace a Udine della conferenza organizzata dalla Camera Penale Friulana. L'avvocato è noto a livello mondiale come difensore dei diritti umani nel suo paese. Attualmente in viaggio in Europa, sta illustrando ad autorità, parlamentari e cittadini la propria attività, la situazione attuale della Colombia e le prospettive per il futuro. E riparte da Trieste il viaggio live di Giada Nannini. La rocker ha infatti scelto la dimensione intima dei teatri per il suo nuovo tour, a cominciare dal Politeama Rossetti di Trieste, che alle 21 ospiterà l'unica data regionale per l'artista. Giada Nannini si esibirà con piano e voce nei teatri italiani, in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lohr. Nella scaletta del concerto troveranno spazio tutti i successi di oltre 40 anni di straordinaria carriera. Piano e forte, dolcezza e energia sono le due anime della rocker, che in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto. La Pallacanestro Trieste ha comunicato ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del playmaker triestino classe 93 Michele Ruzier. Ruz dunque torna a vestire biancorosso dopo 8 anni in cui ha calcato alcuni dei palcoscenici più importanti del basket europeo. Siamo entusiasti del ritorno a Trieste di Michele, il commento del presidente della Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci, perché riteniamo possa essere un innesto importante per dare equilibrio alla squadra squadra in termini di rotazione e di qualità del gioco. Con i giocatori abbiamo preso un accordo chiaro che va nell'ottica della programmazione pluriennale, ha un contratto infatti che lo lega al Pallacanestro Trieste fino al 2025. Siamo alla nostra rassegna stampa, i quotidiani del gruppo Gedi, sia il Piccolo che il Messaggero Veneto, aprono tutte le loro edizioni locali con la notizia della riapertura delle indagini sul cosiddetto Una Bomber, il misterioso attentatore che tra il 1994 e il 2006 costruì ordigni disseminati in varie località del nord-est, in particolare in Friuli, Venezia, Giulia. Le vittime degli attentati furono 28, tra loro, riportano i quotidiani, due bambine, oggi giovani donne, che rimasero mutilate per l'esplosione rispettivamente di un evidenziatore e di un cerovotivo e che hanno fatto istanza di riapertura delle indagini assieme al giornalista Marco Maesano. Il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, ha confermato l'apertura di un nuovo fascicolo. In prima pagina, nel Piccolo di Trieste, anche l'impresa della nave dell'OGS Laura Bassi, che ha salvato 92 migranti, oltre la metà bambini e donne, in balia del mare in tempesta nello Ionio, su una piccola imbarcazione a vela. Il capocronaca è dedicato al piano triennale delle opere presentato dalla Giunta Comunale, di cui vi abbiamo parlato diffusamente poc'anzi. Spazio anche alle prove del tram di Opicina fino a Piazza Oberdan e al percorso espositivo del futuro Museo del Mare. L'edizione di Gorizia del Piccolo dedica l'apertura della cronaca al tema dei richiedenti asilo, discusso nel Comitato per l'Ordine Pubblico. Meno migranti in arrivo dal sud, il titolo, non verranno allestiti tendoni. Nell'articolo il sindaco spiega come il tam-tam fra i migranti abbia chiarito che le strutture di accoglienza di Gorizia sono sature. Il capocronaca di Monfalcone annuncia, nel Parco del Carso, fissate le regole per biciclette, escursionisti e cavalli. Dopo 2 anni di lavoro della terza commissione, il nuovo regolamento approderà in Consiglio Comunale venerdì. La prima pagina del Messaggero Veneto, edizione di Udine, riporta il sondaggio sul comune di Udine. Il 55% promuove il sindaco Fontanini e la sua giunta, in particolare su gestione della pandemia e pedonalizzazione. Poi la cronaca con l'imbrattamento della statua dello scrittore Carlo Sgorlon poche ore dopo l'inaugurazione. Le telecamere hanno ripreso chi ha sporcato il monumento, la banda del buco in azione a Chiopris di Viscone messa in fuga dall'allarme, la condanna della badante che perseguitava un 70enne. Al Bronx si rompe il riscaldamento, 12 gradi e studenti con le coperte, è l'apertura della cronaca del Messaggero di Pordenone. Nella cronaca di Gorizia l'assoluzione in appello di una dipendente della regione accusata di assenteismo. Il Gazzettino di Pordenone e quello del Friuli richiamano in prima pagina l'allarme di Confcommercio, con 850 imprese e 2.800 posti di lavoro a rischio a causa dell'inflazione. Nelle pagine locali della destra Tagliamento una fotonotizia dedicata all'annuncio della rimozione del cartello dedicato a Marco Pantani lungo la strada che conduce al Piancavallo. Per la cronaca il rogo che ieri sera a Cordenons ha divorato il tetto in legno di un'abitazione e l'addio di Casarsa a Bruno Sclippa, l'83enne che ha perso la vita domenica sera in un incidente stradale a Tavagnacco. Ora qualche appuntamento dei numerosi in programma questa sera e in giornata in regione. Sarà Emilio Solfrizzi il protagonista del Malato immaginario di Molière, in scena al Giovanni da Udine nel 400° anniversario della nascita dell'autore del testo, scritto nel 1673 dal commediografo per il se stesso attore e interpretato sul palcoscenico fino agli ultimi istanti di vita. La commedia in scena da oggi fino a giovedì 24 novembre per la regia di Guglielmo Ferro. E dopo il successo ottenuto a Trieste sbarca al Teatro Verdi di Gorizia il musical 7 Spose per 7 Fratelli con Diana Del Bufalo e Baz Marco Bazzoni. L'appuntamento è per questa sera alle 20.45, c'è anche un po' di Gorizia nello spettacolo. Beatrice Burelli, una delle ballerine, è infatti originaria della città. Nel musical vestirà i panni di Lisa, una delle sorelle della protagonista Millie. Il quartetto in do minore di Beethoven e il quartetto in sol maggiore di Schubert nel programma del quartetto Indaco, con il quale si rinnova oggi la tradizione dei conservatori di dedicare nel mese di novembre un concerto a Santa Cecilia, patrona della musica, a Udine nella sala Vivaldi di Palazzo Ottelio alle 18. La 18ª edizione del Festival La Scena delle Donne, diretta da Bruna Braidotti, prosegue con Elena di Sparta, di e con Silvia Priori, in scena al Teatro Pasolini, a Cervignano del Friuli. A Pordenone il percorso di teatro contemporaneo del Teatro Verdi, nuove scritture, ospita Dentro, una storia vera, se volete, di e con Giuliana Musso, sul palcoscenico con Mari Saris, sipario, alle 20:30. Si parlerà di antifascismo di confine alle 17 nella sala tessitori di Piazza Oberdan a Trieste. L'occasione sarà la tavola rotonda promossa dall'AMPI VZP provinciale di Trieste, con la partecipazione degli storici Anna Di Gianantonio, Marta Ivasic, Gianluigi Bettoli e Gabriele Donato, coordinati da Dario Mattiussi. Il libro di Paolo Possamai, Nettuno e Mercurio, il volto di Trieste nell'Ottocento tra miti e simboli, edito da Marsilio Arte Edizioni, sarà presentato alle 11 nella sede dell'Accademia Nautica dell'Adriatico in via Von Bruck alle allieve e gli allievi dell'Istituto. L'autore illustrerà il suo lavoro, mentre il tema sarà introdotto dall'assessore regionale alla formazione Rosolen. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D parlerà di un appuntamento organizzato a Manzano in vista della giornata mondiale contro la violenza alle donne. Dal titolo Difendiamoci, conosci, previeni, difenditi, dialoghi contro la violenza di genere. A seguire dalle 11:20 circa a Radar, terapia genica ai piccoli pazienti. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. È tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale da Lara Zani e Francesca Vigori che l'hanno redatta e condotta, Paolo Cazzano e Maurizio Mona che hanno curato la parte tecnica, Manuel Bussani in redazione, grazie per l'attenzione e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.